Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Del primo anno di corrispondenza. Una bottiglia piccola di birra vuota, un posacenere sporco con una canna fumata a metà, un paio di jeans, un reggiseno azzurro, un'edizione di Clarissa di Samuel Richardson in 3 volumi, una spazzola per capelli. Ottavio Tondi, Quaderni del letto. Anche questo è pacifico. I messaggi che Tondi e Ligeia si scambiarono su Panorama in 4 anni di amore inespresso rappresentano uno fra i più appassionanti racconti sentimentali mai scritti. Esistesse ancora un mondo dei libri, una comunità letteraria o qualcosa che gli somigli. Esistessimo ancora noi come eravamo un tempo, con la nostra ingenua e arida fede nella letteratura. Oggi quei messaggi sarebbero oggetto di studio, di riflessione. Se ne discuterebbe ai convegni, alle presentazioni, ai festival, in tutti quei raduni più o meno autorevoli che in passato animavano la scena culturale. Verrebbero citati come testimonianza emblematica della condizione umana nel nostro tempo. L'importanza che avrebbero assunto in questa nostra epoca disgregata e pulviscolare sarebbe paragonabile all'importanza delle lettere a Felice nella comprensione dell'opera di Kafka e dell'uomo moderno in genere, di un certo tipo di uomo moderno, ovviamente. Si obietterà che affermazioni simili suonano quantomeno azzardate, oltre che oziose, visto che posso farle nella certezza dell'impunità, ben sapendo che non importerà a nessuno se parlo a sproposito di cose ormai fuori dalla storia. Di critici o studiosi degni di tal nome non ce ne sono più. Né esiste più un contesto nel quale abbia senso valutare affermazioni come le mie. Dunque sì, non posso negarlo. Si tratta di mere fantasie, speculazioni gratuite. Altra cosa che mi si potrebbe contestare è l'effettiva qualità dei messaggi. Neppure in questo caso avrei difficoltà a riconoscere la verità. Il loro valore letterario è scarso, irrilevante, forse perfino nullo. Ma a renderli significativi è proprio l'assenza di valore. Ottavio Tondi era un lettore puro, non sfiorato da alcuna ambizione letteraria. La tentazione di sconfinare, di passare dall'altra parte, fosse solo per sfizio, per il gusto di provare, non lo riguardò. Rivendicava con orgoglio di non aver mai scritto nulla. Finché fu studente, dovette scrivere, si intende? Ma una volta abbandonata l'università, smise del tutto. E quando la lettura, da passione pervasiva, divenne per lui un mestiere, si disfece di ogni strumento di scrittura. Espulse penne e matite dalla sua vita. Non c'è motivo di dubitarne. Fin tanto che restò un lettore, Tondi non scrisse neppure una parola, un appunto. I numeri di telefono se li faceva segnare da altri, le cose da ricordare semplicemente li ricordava. Se doveva compilare uno dei tanti moduli di cui è composta la nostra esistenza burocratica, chiedeva una cortesia all'impiegato dell'ufficio o della banca, accampando scuse, un dolore alla mano, un problema di vista, la scarsa dimestichezza col linguaggio dei moduli. Perfino firmare un documento o un assegno gli risultava indecente, ma da quello non poteva esimersi. Soltanto in seguito, dopo la tremenda notte di Ponte Sisto e molte resistenze, soltanto quando gli divenne evidente che non sarebbe stato più in grado di leggere, accettò di arrendersi. Si dotò di un computer e di una connessione, scoprendo, a 40 anni suonati da un pezzo, anzi quasi 50, Internet, mondo del quale fino ad allora aveva sentito solo parlare. rinunciò anche all'astinenza scrittoria vera e propria. Cominciò ad acquistare quaderni e taccuini di vario genere. Da principio fu solo un modo per rimpiazzare quella che fino ad allora era stata la sua maggiore goduria, entrare in una libreria e scegliere un libro. Li acquistava soltanto, disseminandoli poi per casa senza scrivervi nulla, oppure sistemandoli negli scaffali, al posto dei volumi, che era costretto a vendere per tirare avanti. Col tempo prese a comprare anche penne e matite. A quel punto l'infrazione del tabù fu un passo meno che breve. Anche se nei primi tempi non si spinse mai oltre le memorie delle cose lette prima di dire m'addormento, scarno diario retrospettivo nel quale appuntava i suoi ricordi di lettore. In seguito le memorie delle cose lette vennero soppiantate dai quaderni del letto, opera ancor più minimale, null'altro che un elenco giornaliero degli oggetti che la Tissot abbandonava tra lenzuola e coperte. I 4 anni di messaggi con Ligeia costituiscono dunque il primo e unico azzardo scrittorio di Ottavio Tondi, il solo momento in cui abbia lasciato traccia di sé, delle sue parole. Esiste, è vero, il precedente dell'intervista concessa al quotidiano Il Presente, ma se ne rammaricò subito, comprendendo che quella macchia non sarebbe mai sbiadita. Il 23 aprile del primo anno di corrispondenza con Ligeia, dunque molto tempo dopo, parlò di quell'intervista definendola una leggerezza madornale che ancora non mi perdono. E comunque sia, le dichiarazioni trascritte da un giornalista non fanno certo testo, sono al massimo un articolo rubato, com'è probabile che gli stessi messaggi a Ligeia non rientrassero per Tondi nel novero della scrittura in senso stretto. Parliamo infatti di un uomo astratto dal suo tempo, rimasto avvinghiato alla parola stampata fin quando ha potuto e trasmigrato al mondo degli schermi soltanto quando le circostanze gliel'hanno imposto. Per anni, oltre a carta e penne, Tondi si rifiutò di possedere un cellulare. Pur sapendo cosa fosse un SMS, ogni qualvolta gli capitasse di vedere una persona immersa nel bagliore di un telefonino o intenta a digitare su una tastiera in miniatura, restava sconcertato. Le strade gli sembravano popolate da pazzi che facevano cose strane, ma naturalmente teneva questa impressione per sé. Ciò significa che lo sprofondamento nelle sabbie mobili dei cosiddetti social non avvenne per gradi. Passò direttamente dalla televisione, che pure conosceva per sentito dire, a Panorama. Un po' come saltare dalla pittura al cinema senza transitare per la fase intermedia della fotografia. I libri, nei quali aveva vissuto gli anni migliori, e lo schermo attraverso il quale comunicava con la sua Ligeia, erano separati da un abisso troppo grande perché lui potesse scorgervi un punto di contatto, anche minimo. Assimilava i messaggi che scriveva su Panorama a una forma tecnologicamente avanzata di oralità, una comunicazione in bilico tra un lungo telegramma e una telefonata, estranea alla scrittura come lui l'aveva sempre intesa e paventata. Questo agli inizi, si intende. Col passare del tempo, la sua percezione finì per somigliare a quella degli altri umani del suo tempo. Si rese conto che stava scrivendo perché la scrittura, come lui l'aveva sempre intesa e paventata, era morta e sepolta, soppiantata dalla cosa fluida che l'aveva irretito. La connessione istantanea e costante a un magma di presenze e informazioni. A quel punto si era però spinto troppo oltre, troppo dentro la cosa fluida, perché gliene importasse ancora qualcosa. Scrivo, e quando anche fosse, soltanto Ligeia contava, e la cosa fluida era il tramite, il solo di cui disponesse per arrivare a lei. C'erano giorni in cui non soltanto Panorama, ma l'intero internet gli sembrava un tutt'uno con la ragazza dei suoi pensieri. Scriveva soprattutto per le risposte di lei, perché Ligeia gli scrivesse a sua volta e lui potesse seguitare a leggerne le parole, immaginando il suono della sua voce. In fondo, quei 4 anni di corrispondenza non sono stati che un modo, un contorto e forse inconsapevole tentativo di tornare all'antica ed esclusiva vocazione della lettura. L'abitudine alla carta gli impediva inoltre di immaginare che i suoi messaggi avrebbero avuto una vita ulteriore. Non riusciva a concepire che potessero persistere nel tempo, nonostante gli apparissero in perfetto ordine cronologico tutte le volte che andava su Panorama e lanciava il programma di messaggistica testuale, seguitava a pensarli come un'entità volatile, verbale, un'evocazione della sua mente, quasi che il computer fosse un'estensione della sua persona e non un semplice strumento di collegamento a un complesso sistema esterno che memorizzava tutto di lui, ogni sua digitazione, ogni sito che visitava, ogni foto che salvava, ogni singolo secondo che trascorreva sorvegliando il letto di Ligeia Tissot. Per quanto irrazionale possa sembrare, il fatto che la parola memoria venisse spesso accostata al disco rigido di un computer o peggio ancora alla cosa fluida, costituiva per lui soltanto un modo di dire, una similitudine priva di un senso concreto. Malgrado ritenesse folle sperare nella discrezione dei posteri, il pensiero che in futuro i suoi messaggi potessero finire in mani indiscrete non lo toccava. Nonostante il modo in cui sono giunto a leggerli induca a pensare il contrario. L'indiscrezione postuma era un prodotto della carta, un fenomeno del vecchio mondo dal quale lui proveniva, ed era dunque in quel mondo che bisognava prestare attenzione a quanto si scriveva, il mondo in cui chiunque tenesse un diario o spedisse lettere compromettenti doveva mettere in conto che un giorno altri avrebbero disposto delle sue carte più segrete. Il 5 agosto del primo anno di corrispondenza, rispondendo a Ligeia, che aveva avuto parole di disprezzo per coloro che vendono a un editore le carte di un caro estinto, Tondi le dice: «Perché li giudichi tanto male? Non è mica colpa loro. Un morto che si affidi al tatto dei vivi o è un morto stupido o ha vissuto invano». Qualche riga dopo si spinge anche oltre, allargando il ragionamento alla letteratura nel suo complesso. «Ti dirò di più, mia cara. Trovo perfino giusto, o quantomeno naturale, che i vivi facciano scempio dell'intimità degli antenati. Che c'è di tanto strano o disdicevole nel cibarsi dei loro segreti? Un tempo gli uomini mangiavano il cervello del morto per assimilarne lo spirito. Oggi ci accontentiamo di divorarne il privato, l'inconfessato. Il principio resta il medesimo». Tondi si dichiarava dunque persuaso che il bisogno di svelare lati oscuri, rimestare nel torbido, sputtanare il prossimo fosse fisiologico, irrinunciabile come il bere o il mangiare. Soddisfarlo coi morti è istruttivo e soprattutto salvifico, perché se ci accanissimo sui vivi, cosa che peraltro spesso facciamo comunque, nessuna forma di convivenza sarebbe realizzabile. Riposa in pace, auguriamo a chi non c'è più. Ma la verità è che non facciamo che tormentarli, i nostri defunti. Li rievochiamo, ne raccontiamo le storie, ne interpretiamo il carattere, attribuendogli, a seconda dei casi, pensieri e volontà che forse non hanno mai avuto, scelleratezze peggiori di quelle in effetti commesse o sentimenti più nobili. Non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo essere ingiusti e impietosi coi morti per avere pietà dei vivi. Quando Ligeia ribatté che non si può ridurre la letteratura a un volgare pettegolezzo, Tondi le diede ragione. «Non si deve ridurre», le scrisse. «Non si deve perché non ce n'è bisogno. Perché la letteratura, questo è, pettegolezzo. A te stabilire se e quanto volgare». E quando lei si dichiarò perplessa e sembrò sul punto di perdere le staffe, come era nella sua natura, lui si sforzò di essere meno apodittico, argomentò il suo punto di vista. Le ricordò che i primi romanzi erano finti epistolari, sapendo quanto lei amasse Clarissa di Richardson. Le portò l'esempio del manoscritto trovato in un baule. Stratagemma altamente abusato e triviale, ma aprire un romanzo non è forse come frugare in un cassetto che non ci appartiene? E il cosiddetto narratore onnisciente, questa entità che si intrufola dappertutto e non visto da nessuno, vede e ascolta qualunque cosa ci sia da vedere e ascoltare, non è forse il più grande degli indiscreti? Riflettici, Ligeia, concluse Tondi il 7 agosto del primo anno. La letteratura esiste principalmente per una ragione, per soddisfare l'insopportabile voglia di sbirciare e origliare nelle vite altrui. Nessuno trova riprovevole che l'intimità dei personaggi venga sistematicamente violata dagli scrittori e data in pasto a migliaia di lettori. Ma in base a quale principio si è stabilito che le persone dei romanzi non abbiano diritto a uno straccio di riservatezza? Forse perché non sono fatte di carne? Ma se il principio è questo, per quale ragione si dovrebbe avere più riguardo verso coloro la cui carne è tornata polvere? Se alla letteratura viene riconosciuta tanta importanza, malgrado la sua scarsa utilità, è proprio perché ciò che si dice di un uomo conta, in fin dei conti, più delle sue azioni. Sebbene l'idea che non vi fosse alcuna differenza sostanziale tra un morto e il personaggio di un romanzo l'affascinasse, Ligeia non si sentiva di sposarla. Tondi insisté, argomentò con nuovi e più estremi esempi, cercando di convincere la ragazza, la quale finì per esasperarsi. Il 12 agosto, chiaramente turbata, gli ordinò di smetterla. Non voleva più sentire parlare di quella storia. La si può capire. Io stesso, sul momento, nel leggere per la prima volta quei messaggi, rimasi sgomento. Mi tornarono alla mente persone che avevo perduto, persone che faticavo a mettere sullo stesso piano di chi vive soltanto nella fantasia di scrittori e lettori. Era dunque soltanto questo che Tondi aveva ricavato in tanti anni passati sui libri? Un buco della serratura? Un semplice origliare? Avvertivo qualcosa di gelido e indecente in quell'idea. Un'aridità che sembrava dare ragione al numero sempre maggiore di persone avverse ai libri, convinte che il toccasana per lo spirito non fosse la lettura, ma il tenersi lontano dagli scrittori. La vera conoscenza non era fatta di carta, ma di vita vissuta, un genere di vita dalla quale Tondi si era certamente allontanato. E tuttavia chi ero io per biasimarlo? Se adesso valutavo con sgomento le sue parole, era solo perché avevo la possibilità di leggerle. E questa possibilità era tutt'altro che innocente. Potevo leggerle soltanto per un motivo, infatti. Perché avevo violato uno spazio privato, il suo profilo su Panorama. Anch'io stavo sbirciando nell'intimità di un morto. Ecco la verità. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.